Ciao, sono Roberto, abito in provincia di Biella, ho 51 anni, ho fatto per 30 anni il grafico e da qualche mese faccio il buffer, ovvero vado per aziende agricole, offro la mia disponibilità di aiuto in cambio di vitto alloggio.